si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno e buona domenica a tutti, ascoltatori di Radio 24, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno. Ben ritrovati con Si può fare, insieme fino alle 10, 800 24 0024. Si interviene in diretta, si commentano le notizie della settimana, noi sempre a caccia di buone pratiche, di buone notizie. Per girare un po' l'umore della settimana, ci proviamo. Milano Monterosa oggi bello, è intonato. Ieri c'è stata una giornata straordinaria di sole, anche oggi vediamo il sole spuntare. E poi la più bella notizia, possiamo dirlo, l'accordo che viene da Vienna sulla fine delle sanzioni all'Iran sul nucleare, uno scenario internazionale, vabbè, staremo a vedere. Però si è rivista la Mogherini. Si è rivista pure la Mogherini, non ne sapevamo più niente da un sacco di tempo. Insomma, non è che internazionalmente non sia successo niente fra ISIS, Siria and company. Ah, così entri subito a gamba tesa sulla Mogherini. Ma figurati, non ho nessun. Dicevo così. Comunque. Ero contento di aver visto la foto, così ho detto: ah, ecco dov'è. Ah, c'è, allora dice, c'è ancora. Tra pochissimo iniziamo così una carrellata sulle notizie principali di questa settimana, la ripercorriamo e laddove possibile daremo anche qualche spunto di ottimismo. E poi cerchiamo naturalmente un personaggio della settimana che si porta dietro con sé una notizia. Il primo indizio che vi voglio dare è questo, cari ascoltatori. Anche oggi in palio i biglietti e il catalogo della mostra. Cosa abbiamo? Barbie, forse? No, non ricordo più. Mi risulta Barbie. Barbie o Gauguin. Insomma, comunque estraiamo dal scatolone delle mostre del gruppo 24 ore su Milano, ma ci sono anche altre cose, Torino, Verona, eccetera. Abbiamo dato Tamara dell'Impiccica, tanto per dirne una. Il primo indizio che vi voglio dare, cari ascoltatori, è questo. Il personaggio sta affrontando una grande sfida. Così. Come primo indizio mi sembra ottimo. Ci stiamo dentro. 800 24 00 24. Vai, iniziamo. Non iniziamo? Iniziamo. Forse, vediamo. Pamma. E allora dobbiamo dire delle cose sul fatto che il Napoli è primo in classifica? Sì, per esempio, è il momento. È il momento di improvvisare. Un grande momento per il Napoli. No, tra poco parleremo, prima di cominciare con il ripiro delle notizie, un argomento. Ascoltatori, caricate subito il numero verde, perché questa è una cosa che sta a cuore a molti, soprattutto agli automobilisti. Oggi era la giornata per risentire Joelle Dix e il suo automobilista incazzato nero, perché parliamo dell'autorizzazione che arriva dal Ministero dei Trasporti delle cosiddette multe a strascico. Non so se sapete di cosa si tratta, ma è una roba grossa. Lo dici con la gravità negli occhi, sì, che ovviamente voi non potete vedere, ma vi comunico io, perché evidentemente hai paura di prendere delle multe pazzesche per un divieto di sosta. Però è un passaggio anche questo, diciamo, di legalità, eh? Lo conosceremo tra poco. Adesso ripercorriamo la settimana, iniziamo, vai. Oh, allora, visto che abbiamo, e tra poco parleremo di automobilisti, una delle notizie di questa settimana riguarda la depenalizzazione di alcuni reati, tra cui anche la guida senza patente. Attenzione, non è che il governo con questi decreti ha tolto completamente l'illecito, non è più un reato che prevede un arresto, una reclusione in carcere, ma un illecito amministrativo, si pagano delle sanzioni. Non è più penale. Io quando ho letto la notizia sono molto contento, perché io, non avendo la patente, ho detto: ma che vuol dire? Che finalmente posso guidare, anche perché io non so guidare. Invece no, non è così. È che se ti trovano senza, ma ce l'hai a casa, non ti arrestano. Tra l'altro, tra le cose depenalizzate, atti osceni, anche l'ingiuria. Il Corriere ha telefonato dopo 2 minuti che il governo ha approvato questa cosa a Sgarbi, per fargli un'intervista. Sgarbi che ha esultato tantissimo perché lui ha centinaia di querele per ingiuria, perché ha offeso di tutti dando dicendo di tutto. Devo dire personalmente io sono favorevole alla depenalizzazione perché si sgombrano un po' i lavori dei magistrati, non lo so, è retroattivo, però no? Festeggiare la liberalizzazione dell'insulto e come si festeggia con un vaff, vabbè, esatto, infatti è quello che così è stato. Sì, perché nella telefonata tra il Corriere e Sgarbi è partito subito un astro perfetto. Chi era? Berlusconi, che era con lui a festeggiare il compleanno del papà di Sgarbi. Ah, pensavo sempre la depenalizzazione dell'ingiuria. E allora, sentiamo il ministro Lorenzin, perché tra le depenalizzazioni c'è anche una cosa che riguarda l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico, di cui noi abbiamo parlato molte volte, quindi sappiamo bene di che cosa si parla. Sentiamo il ministro. Il tema della cannabis era fuori dal Consiglio dei Ministri, perché come sappiamo non è tema del governo in questa fase, e il tema che si è affrontato è stato quello della depenalizzazione di alcune procedure prescrittive che sono, diciamo, atti dovuti per le strutture che sono autorizzate alla coltivazione della cannabis ad uso terapeutico. Qui non c'è nessuna azione di depenalizzazione della cannabis ad uso terapeutico in generale. Per quanto riguarda tutto il tema della depenalizzazione, non è oggetto del programma di governo, e per quanto mi riguarda come ministro della salute, come ho più detto, sono contrario. E va bene, 800 24 00 24, se volete commentare anche questa notizia qua. Altro tema. La polemica è veramente sterile, possiamo dire, nel senso che è stata depenalizzata l'uso della cannabis a scopo terapeutico. Ovviamente tutti a dire: ah, sono arrivati gli antiproibizionisti. No. È una stupidata. No, non è così. Non è così. Un po' come dire che la legge Cirinna legalizza l'utero in affitto. Sì, sono boiate. Ma allora mi anticipi il prossimo tema, perché c'è Maretta in vista del Family Day, con il quale tutti gli oppositori di questa legge, per dire la verità sembrano tanti in Parlamento, un po' meno fuori dal Parlamento, si riuniranno per dire la loro in vista di questo appuntamento. E comunque c'è travaglio all'interno, Marco. No, esatto, è una parola che non si può usare, diciamo, da 15 anni a questa parte. Della maggioranza, e in particolare anche nel PD sulla legge Cirinna, in particolare sul tema della stepchild adoption, abbiamo parlato più volte. Sentiamo qualche vocetta. Va, sentiamo Brunetta, intanto, che annuncia il no di Forza Italia. Forza Italia che tra l'altro è divisa al suo interno, poi spieghiamo anche perché. Sì alla regolazione dunque, ma no alla Cirinna, per un semplice motivo: che il disegno di legge Cirinna di fatto equipara le unioni civili alla famiglia, come prevista dalla Costituzione. Tanto è perfetto Brunetta, perché dice come previsto dalla Costituzione, quindi forse vanno equiparate. Infatti non si capisce quale sia il problema delle unioni civili che, anche se dovessero equiparare il matrimonio eterosessuale ad altri tipi di matrimoni, ad altri tipi di famiglie. Sentiamo Alfano che chiarisce. Alfano fa parte della maggioranza, lo dico per chi non se ne fosse accorto, no, a parte gli scherzi, e dice sì alle unioni civili, non alle adozioni. Sentiamo. La cosa che non capisco e non condivido è perché questo giusto riconoscimento di diritti di singoli soggetti in coppie anche dello stesso sesso poi sia finito per diventare un ragionamento tutto fondato su che cosa? La adottabilità dei figli. Per me la cosa migliore è che il tema delle adozioni resti fuori. Il tema di legge Cirinna resta una sorta di fotocopia del matrimonio. Noi non possiamo votare di sì. Ma non è una fotocopia del matrimonio, ma questo non lo dico io, perché semmai lo dirà Carlo, che su questi temi. Però fammi dire prima una cosa. Vai. Avevamo intervistato Monica Cirinna alla fine dell'anno, ti ricordi? Che aveva detto: ci sarà sicuramente, la legge è questa, non si fa un passo indietro, andiamo avanti, eccetera, eccetera. Noi con lei comunque a dire questa cosa va regolamentata, questa benedetta legge, che siamo l'unico paese ormai in Europa, o quasi, chi è la Grecia forse? Mezzo a tutta la crisi che c'ha a dicembre ha fatto questa cosa qua. Perché ricordiamoci che sono famiglie già esistenti, quindi non stiamo autorizzando qualche cosa, ma già esistenti. E allora lei aveva detto ci sarà, e invece adesso scopriamo che probabilmente si va verso una soluzione diversa, che è quella dell'affido. Allora sentiamo. No, la legge rimane così, poi c'è un emendamento dei senatori. Sentiamo su questa cattolici. Questione dell'affido dei figli naturali. naturali delle coppie gay, qual è la soluzione che si va profilando? L'ha spiegata molto bene Rosa Maria Di Giorgi al microfono della nostra Roberta Giordano a Effetto Notte qualche sera fa. Sentiamo. Noi pensiamo di dare a tutti coloro che hanno intenzione di svolgere la funzione di genitore, che sono compagni di qualcuno che ha un bambino, riteniamo di poter dare loro la possibilità di fare questo attraverso un nuovo istituto che si chiama affido rafforzato, ossia noi vogliamo che si possano svolgere tutte le funzioni nei confronti di questo bambino, dall'accompagnare a scuola, all'ospedale, tutto quello che un genitore può fare. A 18 anni questo affido, se il minore, se il bambino, il ragazzo a quel punto lo vorrà, potrà trasformarsi in adozione. Don't talk of dust and roses, or should we powder our noses? Don't live for last year's capers. Oh, give me steel, give me steel, give me pulses unreal. We'll build a glass asylum with just a hint of mayhem. We'll build a better whirlpool. We'll be living from sin. E con questa Big Brother, tra l'altro, rendiamo anche omaggio a David Bowie, che ci ha lasciato. Non è una delle sue canzoni più celebri, però il motivo per cui l'abbiamo scelto lo capirete tra poco, lo sentirete tra poco. La senatrice De Giorgi spiega la questione dell'affido rafforzato. Ricordiamo che la senatrice De Giorgi è una delle firmatarie di questo emendamento per cambiare questa cosa che si era già decisa, e sono fra questi senatori che hanno urlato alle liste di proscrizione perché le foto di chi ha deciso di non votare la legge Cirinna sono state pubblicate da un sito. Io non capisco come mai si vergognino, nel senso che se loro davvero pensano che questa sia una miglioria alla legge, dovrebbero andare fieri della loro miglioria, invece si vergognano del fatto, delle loro facce, del fatto che tutti sappiano chi sono quelli che hanno deciso all'ultimo invece di cambiare la legge Cirinna. L'affido rafforzato è un grande cambio in realtà, e stiamo parlando di bambini che già esistono, e la stepchild adoption non significa, è un problema proprio di traduzione, che le persone pensino che si stia parlando di adottare, che ci sono vari step per adottare. Non è così, stepchild significa semplicemente figliastro, quindi stiamo parlando dell'adozione del figliastro, che visto che sono bambini che già ci sono, mi sembra una questione doverosa. Va bene, facciamo una pausa per il traffico e torniamo tra un attimo con l'800 24 00 24. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Don't talk of dust and roses, or should we powder our noses? Don't live for last year's capers. Oh, give me steel, give me steel, give me pulses unreal. Oh, cari ascoltatori, allora di nuovo buongiorno, e intanto vi ricordo che stiamo cercando anche un personaggio della settimana che sta affrontando una grande sfida. Aguzzate l'ingegno, 800 24 00 24. Oh, adesso è il momento di parlare delle multe a strascico, una sorta di grande fratello che consente con le nuove tecnologie alle auto dei vigili urbani di girare per la città e di individuare con le telecamere, con dei sensori, tic tic tic tic, i contravventori. Esatto, le multe che bisogna fare, una prassi che già esisteva ma che adesso il Ministero dei Trasporti ha definitivamente autorizzato, superando una serie di ricorsi. Qui con noi al telefono Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno, nonché delegato per l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, per la finanza locale. Buongiorno Castelli. Buongiorno, un saluto a tutti. Buongiorno. Allora, insomma, noi la prendiamo, diciamo, come una buona notizia, nel senso che se finalmente, diciamo, non troveremo più l'auto parcheggiata sul marciapiede sotto casa o sul divieto di sosta o dove io ho il diritto alla sosta e uno che viene da un altro quartiere no, Però cioè, sappiamo che le multe poi fanno un po' arrabbiare, perché... perché non fanno mai piacere, non solo non fa piacere pagare, ma anche perché sembra che vadano un po' ondate, cioè ogni tanto c'è il momento delle multe, poi la città resta disordinata e intanto si continua a pagare le multe, quindi questo è un po', è vero che vanno un po' ondate le multe, ogni tanto fate... Ma più che di ondate, diciamo che recentemente, ma questi sono dati che sono proprio ufficiali, sono stati divulgati, sappiamo che l'unità di misura per poter capire come va il trend delle multe sono i gettiti, e i gettiti negli ultimi 5 anni sono calati in maniera considerevole. Sono calati di quindi parliamo a livello nazionale? Sì. A livello nazionale circa 300 milioni in meno, però... Ma sono calati per lo sconto? Per il fatto che si paga... Soprattutto per lo sconto, perché è stata introdotta una norma sicuramente molto positiva e giusta, che consente, come è noto, agli utenti multati di pagare entro 5 giorni una percentuale pari al 30% di quello che è l'importo della multa. Quindi, infatti viene moltissima voglia di pagarle le multe quando ti arrivano, perché dicono guarda che se la multa è 300 euro, ma se la paghi entro 60 giorni è solo 100. E viene subito voglia, diciamo, ma sa che vado subito a pagare. La voglia non c'è, però l'utilità aguzza l'ingegno, anche perché pochi sanno, anche gli italiani, che spesso e volentieri quando non si paga e le multe vengono poi trasferite agli esattori che dovrebbero materialmente riscuotere, spesso questa cosa non succede, tant'è vero che alcuni esattori riescono a recuperare non più dell'8-9% dell'intero gettito non pagato, lei pensi, no? Quindi le multe vengono elevate, il sindaco si prende gli improperi, ma addirittura non riesce neanche a recuperare le somme. Questa possibilità di pagare la somma ridotta vale anche per le multe a strascico? Per le multe che ti arrivano a casa in quel caso? No, assolutamente sì, per tutte le multe, però dovremmo chiarire cosa sono queste multe a strascico. Ce lo spieghi, tecnicamente. Vuoi dire ai tonni di Mazara del Vallo. Allora, sono lo street control, sono delle torrette che vengono posizionate sul tetto dell'auto della polizia municipale e questa, diciamo, verifica elettronica, questo taccuino elettronico fa delle fotografie in riferimento alle macchine che sono in qualche modo prive di alcuni requisiti di legge oppure che sono poste male, sono in doppia fila, bla bla bla. Allora, da questo punto di vista dobbiamo essere subito chiari, nessuno può contestare la doverosità dell'utilizzo di questo strumento quando si tratta, ad esempio, di verificare se una macchina è stata rubata o meno, se è revisionata o meno, se è assicurata o meno, perché evidentemente questi sono, come dire, reati, sono fatti illeciti che in qualche modo violano e pregiudicano anche la sicurezza generale e collettiva. Sì, sì, ma anche se sono in terza fila comunque. Esatto. Poi questo, diciamo, che ogni sindaco ha autonomia e potere di decidere se estendere i controlli anche a queste situazioni di traffico. Per esempio ci sono città, però lo dobbiamo precisare anche per non dare un giudizio, come dire, troppo generico, che si limitano a usare lo street control per verificare se ci sono macchine in sosta abusiva lungo le corsie preferenziali, perché anche questo è un problema che mi sembra essere necessariamente da tutelare, da mettere a punto. Ora, il punto è, ci sono poi le altre multe, se ne ha occupato il Ministero dei Trasporti, e cosa ha detto in sostanza? Che guardate, è possibile l'utilizzo di questo mezzo a strascico purché il vigile urbano verifichi personalmente nel momento in cui guida l'auto che effettivamente non sia possibile la contestazione immediata alla persona che è in sosta vietata o in doppia fila. Cioè l'autista non deve essere, diciamo, raggiungibile nei paraggi? Esatto, perché alla fine anche l'intervento del Ministero si è limitato a questo, a dire guardate, la contestazione differita di una multa è lecita e possibile, purché tu, vigile urbano, verifichi personalmente e lo verbalizzi. Però questo mi fa venire in mente una strada che si apre quasi come un'autostrada per una serie di ricorsi, cioè gente che poi dirà io ero nei paraggi, il vigile non mi ha visto ma io c'ero, quindi faccio ricorso, addio o no? Centrato il bersaglio, perché l'Italia, lei lo sa, summus ius summa iniuria, ovvero tante regole ma anche tante ingiustizie. Questo però questo non va bene, perché tutti questi ricorsi intaseranno i tribunali, sarà un casotto. Ma soprattutto perché se uno è in terza fila o in seconda fila e ci rimane un'ora, anche se lascia in macchina la vecchia nonna, non è che questo dà meno fastidio alla sua macchina? È solo un fatto formale procedimentale per la contestazione che secondo legge si deve fare immediatamente. È lo stato di diritto, giustamente, giusto, che richiede che c'è, però c'è un fatto che anche i radioascoltatori devono sapere, che queste multe a strascico evidentemente impegnano molto le polizie municipali, perché voi pensate che innanzitutto il vigile deve, come dire, abituarsi a una verifica fatta con il tablet e a un'istruttoria che è digitale, perché poi dovranno essere verificate le foto, devono essere fatte bene, devono essere capaci di visualizzare la targa oltre ogni ragionevole dubbio. C'è tutto un sistema di backstage o di post-produzione, se mi consenti del termine, che obiettivamente renderà piuttosto impegnativo questo strumento, che secondo me non va utilizzato ovviamente in maniera fraudolenta per fare cassa, questo è un dato poi che è rimesso alla sensibilità di ciascun sindaco, ma che obiettivamente può mettere un pochino di ordine in un paese, diciamolo pure, che non è particolarmente votato e vocato. Però scusi, lei sta dicendo, siccome è un metodo che richiede un certo impegno, una formazione anche dei vigili urbani, molti sindaci non vi faranno ricorso in maniera massiccia, però qualcun altro invece magari che vuol far cassa potrebbe dire: investo nella formazione di una bella pattuglia di vigili tecnologici e vai con le multe. Questo potrebbe sì, anche accadere. Per far cassa o semplicemente per regolare il traffico. Io per esempio ho il mio amico Enzo Bianco di Catania che ha detto sì, guardate, io non voglio far cassa anche perché c'è la famosa norma che ha ridotto al 30% il gettito se pagata, come dicevamo prima, entro 5 giorni, però c'ho un problema. Come cerco di ordinare i comportamenti del sistema civile di Catania? Questo è uno strumento. Questi sono strumenti e non fini, ecco, alla sensibilità del sindaco riuscire a organizzare la cosa in maniera tale che assolutamente, i cittadini non siano tonni di Mazzara, ecco. Però senta sindaco, però l'altra questione, no, che si sente dire da voi sindaci è che gli introiti delle multe, almeno una parte, poi devono essere investiti, spesi per migliorare la viabilità, sì, parcheggi, mezzi pubblici, corsie preferenziali, formazione dei vigili, formazione dei vigili, tram, eccetera eccetera. Ma è così davvero per tutti? In che percentuale si fa questo? Allora, deve essere così. C'è un articolo del codice della strada, il 208, che stabilisce in maniera prescrittiva come vanno suddivisi e impiegati i proventi delle multe. Fra l'altro anche l'educazione stradale è una delle finalità verso le multe. Chiaramente ogni sindaco è tenuto a farlo, ogni sindaco è tenuto a comunicare di averlo fatto regolarmente, quindi siamo nell'ambito di quella che è la doverosità del comportamento. Poi, come al solito, in tutte le categorie umane, anche quella dei giornalisti, lo dico, come dire, senza... Così, una casa, diciamone una casa. Perché stavo parlando con un giornalista, ci sono quelli bravi e quelli cattivi, però assolutamente è necessario far così. Poi ma che percentuale, che percentuale degli introiti deve essere investita? No, tutti gli introiti delle multe devono essere finalizzati anche in lavori manutenzioni stradali. Tanto è vero, le polemiche spesso capitano in riferimento a questo, usate soprattutto per sistemare buche e altre, come dire, amenità che possono rendere più pericolosa la circolazione, perché a quel punto diventa anche sostenibile la multa, nel senso che nessuno sarà contento e tirà sulla... No, però devo dire che uno pagare, si sente però un po' meglio un po' se meglio, sa che, no, con i soldi della multa vengono tappate le buche. Cose di questo genere, sicuramente uno si sente un po' meglio. Si può vantare in giro di aver preso delle multe, per esempio. Dice, sai, questa strada qua, tutte le l'ho buche sistemata io. L'ho sistemata io, esatto, l'ho stricata io. Che strumenti ha il cittadino, sindaco Castelli, per verificare questa cosa qua? Cioè, mettete online i bilanci, perché resta sempre il sospetto che non sia... Beh, chiaro, per carità. Poi, come diceva Karl Popper, la bontà di una tesi viene valutata in relazione alla possibilità che ha di confutare i tentativi di, come dire, falsificarla o di metterla in dubbio. Quindi, bilanci ovviamente... Mi cita Popper così, parlando di multe, è straordinario, di domenica mattina, non me l'aspettavo. Però bisogna essere liberali in questo senso per cercare di capire come avere un rapporto buono di questi tempi con i cittadini, perché guardate, al di là di ogni retorica, non è semplice governare una città con la rete che ti assalta, ti aggredisce, le verifiche che sono giustissime ma che mettono il nostro senso di responsabilità spesso, no, sulla corda. Non mi faccia dire che non gliel'ha ordinato il dottore di farlo. Assolutamente, però. Infatti io sono fiero, se è vero che alle 9 il parlo di street control di Karl Popper, però detto certo, questo, sono momenti notevoli. Noi però dobbiamo fermarci qua perché abbiamo il giornale radio tra poco. Grazie. Grazie sindaco mille, Castelli. Sindaco. Allora, potete venire ad Ascoli perché lo street control non c'è, almeno per il momento. Ma noi ci verremmo anche se ci fosse lo street control, non abbiamo paura, ci mancherebbe. Ci fermiamo 800 24 00 24, tra poco cerchiamo un personaggio che sta affrontando una grande sfida. Dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Ben ritrovati con Si può fare, 800 24 00 24. Cari ascoltatori, già in linea per intervenire, ancora un attimo di pazienza, perché tra poco riprendiamo il riepilogo delle notizie della settimana. Parleremo di tante cose, no, ma adesso è il momento degli ascoltatori. Anzi, vi ricordo che stiamo cercando un personaggio della settimana che sta affrontando una grande sfida. Questo è il primo indizio. E speriamo di non dovervene dare altri, che riusciate ad indovinarlo così. Allora, Besnik, credo che si chiami così, che ci chiama da Forlì. Buongiorno, Besnik. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Su cosa volevi intervenire? Io volevo intervenire per il personaggio che state cercando per questa settimana. Avevo pensato che forse è Emma Bonino. Forse. D'accordo. Emma Bonino. E qual è la notizia legata ad Emma Bonino di questa settimana? Ho sentito che sta attraversando una malattia. Sì, questo assolutamente. Per il cancro. Allora ho pensato a lei. Perché hai pensato a lei, perché noi abbiamo detto che sta affrontando una grande sfida, e in effetti questa... Il pensiero ci sta. Cioè, non è una sfida, è altro che una sfida. Assolutamente. Infatti è già stato il nostro il personaggio della settimana in altre occasioni, ma non è il personaggio di questa settimana. Ti chiedevamo della notizia perché ci piace sempre anche sentire da voi notizie che magari non ci sono sfuggite. Grazie Besnik, buona giornata. Buona domenica. Ciao. Amalia da Genova, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e buona domenica, una giornata meravigliosa, piena di sole. Amalia, sentiamo maluccio, a dire la verità. Forse perché è su un pattino in mare e sta remando. C'è un bel venticello e non tutta più a vela, ma non a remi. Ah, perfetto. Ok, adesso sentiamo un po' meglio. Sì. Cosa voleva dire Amalia? Allora, io ho così distinto, mi è venuto da dire, da pensare, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, quale sarebbe la notizia? La notizia che sta adesso, si sta preparando, sta affrontando, dopo appunto tanti anni che sta inseguendo l'Oscar. Ecco, si sta preparando, ho pensato forse a lui. La sfida c'è di sicuro, nel senso che si sta avvicinando l'Oscar, e come ormai direi da 15 anni Leonardo DiCaprio spera di vincere un Oscar, perché non ce l'ha mai fatta, e un po' glielo auguriamo, perché forse è ora, ecco, diciamolo. Però non è il personaggio che avevamo pensato, ma la ringraziamo moltissimo di aver chiamato. Grazie Amalia, ciao, buona domenica. Grazie a voi altrettanto. Ciao. Domenico da Roma, tra poco diamo anche un altro indizio. Buongiorno intanto, Domenico. Buongiorno. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire? Volevo intervenire sulle multe a Roma. Sì, ce ne sono tante? Ne ha presa una? Multe tante a Roma, sì. No, io volevo dire, Roma è 33 volte Milano, è la seconda città per estensione d'Europa dopo Londra. È 33 volte Milano? Mi sembra tanto. Sì. In termini di superficie? Di che cosa? Sì. Di superficie. Ma mi sembra un po' tanto 33, No, guardi su Wikipedia. Sì, no, perché è la questione che a Milano appena basta che fai via Padova o via Le Monza, è subito un altro comune, già Sesto è un altro comune, mentre Roma è la grande Roma, e quindi giustamente conta tutta. Questo per dire che cosa, Domenico? No, io volevo dire questo, no. In una città dove il problema numero uno sono i mezzi pubblici che non funzionano. Sì. Allora tutti sono costretti a prendere la macchina. Okay. Per spostarsi a Roma bisogna prendere minimo 3 pullman. Questo è vero. Sì, direi che tutti sono costretti a pretendere che ci siano dei mezzi pubblici che funzionino. Esattamente. Quindi il traffico di Roma c'è perché non funzionano i mezzi pubblici. Io vengo spesso a Milano, e Milano funziona molto meglio di Roma. Beh sì, questo sicuramente sì. A volte è un gatto che si morde la coda. Però dove vuole arrivare, Domenico? Dove vuole arrivare? Arrivi. Arriva subito. Sì. Abbiamo una città tipo Ostia che è grande quanto Bologna ed è collegata con un trenino fatto all'inizio del secolo, dove tutte le mattine per prenderlo è impossibile. E quindi... Il nostro sindaco o il nostro commissario attualmente sul divieto di sosta deve chiudere un occhio, se no porta la città a una situazione di tensione che... Però mi scusi, sta dicendo una cosa molto precisa. Lei sta dicendo c'è un grosso problema di mezzi pubblici e lei dice che bisogna chiudere un occhio sul divieto di sosta. Uno dei più grossi problemi dei mezzi pubblici è che a Roma non passano, perché siccome non danno le multe per i divieti di sosta, ci sono macchine in terza fila. C'è un altro problema. Prego. I mezzi pubblici di Roma. Sì. Vede che c'è lo spazio riservato ai mezzi pubblici. Sì, quando che è quasi sempre invaso. Sì. Quando si fermano al centro della carreggiata, non entrano nello spazio giallo. Mm-hmm. Quindi le auto sono costrette a fare le fermate che fa il pullman. Onestamente, però che il problema della viabilità di Roma sia che i mezzi pubblici infrangono le regole, mi sembra, diciamo, una visione un po' fantasiosa. No, sa soprattutto Domenico, sa qual è il problema? Mi ascolti un attimo, sa qual è il problema? È che o aboliamo i mezzi pubblici e allora chiudiamo un occhio sulle multe, oppure. Ma chiudere un occhio è proprio una regola che non può esistere. Oppure dobbiamo deciderci, perché altrimenti si crea nuovamente l'ingorgo. Chiudiamo un occhio sulle i divieti di sosta e i mezzi pubblici si fermano in mezzo alla strada e non si va da nessuna parte. Quindi lei sarebbe per toglierli i mezzi pubblici, forse? No, io sono per fare altre tre linee di metropolitani come sono state fatte. Ha ragione. Spagna, senta, questo ha ragione, però non si può dare la colpa ai mezzi pubblici. Io onestamente, visto anche tutta la situazione di Roma, più che chiudere un occhio direi che bisognerebbe aprire anche l'altro. No, io non do la colpa ai mezzi pubblici. Sì. Perché i mezzi pubblici di Roma sono del Medioevo. Ha ragione Domenico, ci sono le elezioni presto a Roma, mi raccomando scegliete bene il sindaco che punta su questo tipo di riforme, sulla mobilità. In bocca al lupo a Domenico e a Roma. 800 24 00 24. Facciamo un altro ascoltatore prima del traffico, vai al volo. Daniela da Milano. Daniela, prima che mi passi la voce. Ciao. Come a Mentana. Sì. Eccomi qua. Allora, secondo me la persona a quale state pensando è Paola Giannotti, che sta andando in bicicletta a Oslo portando una serie di firme per la proposta per il premio Nobel. La notizia da Caterpillar. Strepitosi quelli di Caterpillar. Lei è stata precisissima, ci ha detto il personaggio, ci ha raccontato la notizia, quindi è tutto preciso. Purtroppo non è il personaggio che abbiamo scelto questa settimana, ma siamo felicissimi di aver dato, che lei ci abbia dato la possibilità di raccontare la storia di Paola Giannotti. Anzi, mi aggancio, grazie Daniela, intanto buona domenica, mi aggancio per sostenere in qualche modo anche noi l'idea di Caterpillar, che è di candidare al premio Nobel per la pace la bicicletta proprio. Tu cura, è una bella idea questa qua. È la prima volta forse che c'è addirittura un tandem Caterpillar si può fare di due trasmissioni radiofoniche di due radio diverse. Adesso dobbiamo trovare il modo di fare un gemellaggio su questa cosa della bicicletta che è bellissima. Allora aggiungiamolo però un indizio per i nostri ascoltatori e diciamo vai tu. Che questa sfida che il nostro personaggio sta affrontando la sta affrontando contro il tempo. Quindi una sfida contro il tempo, un indizio che può aiutare, non o è un avviare. Indizio molto ampio, ma magari tra poco ci arriviamo con un altro aiutino. 800 24 00 24, tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, andiamo avanti con il riepilogo della settimana che vede il passaggio della riforma del Senato a Montecitorio. Ci sarà adesso un altro passaggio di nuovo al Senato e poi credo di nuovo alla Camera, ma a questo punto la strada pare spianata, il dibattito si sposta tutto sul tema del referendum, perché come sapete ci sarà un referendum per approvare la riforma che diciamo mette la parola fine al bicameralismo perfetto e riduce il Senato diciamo ad una assemblea di rango ridotto rispetto alla Camera e soprattutto che non dovrà più dare la fiducia al governo. E soprattutto Matteo Renzi ha messo la sua testa su questo Bravo. Referendum, ha detto se non passa, se gli italiani non mi danno la fiducia me ne vado, credo. Ed è su questo tema che sentiamo la voce del ministro Maria Elena Boschi, una posizione che ha sollevato qualche perplessità, perché si dice la riforma costituzionale non è sovrapponibile al tema del governo del paese, quindi bisognerebbe fare una campagna elettorale non sul governo sì, governo no, ma sul tema della riforma, se piace o non piace ai cittadini italiani. Quindi diciamo una mossa che qualcuno critica, certo. Altri dicono no, ma ci mette la faccia. Ci mette la faccia, ha alzato l'asticella dello scontro, esatto. In qualche modo non si voterà per decidere se ha fatto bene questa riforma, ma se va bene o non va bene questo governo. Sentiamo Boschi. tutto il governo, quindi anch'io ovviamente come membro del governo, come ha detto il Presidente del Consiglio, se gli italiani decideranno che queste riforme costituzionali al referendum di ottobre, dell'autunno, non saranno le riforme per i prossimi anni del nostro Paese, dovremo necessariamente risottoporci alla scelta dei cittadini. Altro tema della settimana, il sindaco di Quarto del Movimento 5 Stelle, Rosa Capuozzo, non si dimette. Nonostante lo scandalo legato ai voti della Camorra, ci sono delle intercettazioni telefoniche, un'inchiesta in cui lei non è indagata, ma nella quale lei non avrebbe collaborato a sufficienza con i magistrati, denunciando le pressioni che invece ha ricevuto da Del Robbio, che poi è stato sì espulso dal Movimento 5 Stelle, ma appunto lei non ha denunciato queste pressioni, motivo per cui il Movimento 5 Stelle le chiede di dimettersi, però lei replica così: non c'è nessuna intenzione di dimettermi, ho il sostegno di tutto il movimento, di tutti i cittadini di Quarto, e le dimissioni non le ho prese in considerazione perché non ci sono i motivi, basta vedere, non c'è nessun motivo per cui mi debba dimettere. Quindi alla luce di quello che ho detto, come potete vedere, i fatti sono sempre stati chiari, sono stati lineari e abbiamo visto lungo sul tentativo di infiltrazione, abbiamo visto lungo e abbiamo chiuso la porta, perché il Movimento 5 Stelle fa così. Questa giovane sindaco aveva chiesto un aiuto ai dirigenti del suo partito, non si capisce bene se l'ha ottenuto o no, se qualcuno era a conoscenza di ciò che stava accadendo e ha preferito tacere per evitare conseguenze. Personalmente mi sembra davvero ingiusto buttare la croce addosso a lei, quindi se lei mi domanda, lei si sarebbe dovuta dimettere, fermo restando che le dimissioni sono una valutazione personale, dico no, io credo che lei avrebbe dovuto eventualmente denunciare chi la stava ricattando o minacciando, ma certo non dimettersi, perché in quel posto l'hanno messa i cittadini. Ha fatto bene o ha fatto male il Movimento 5 Stelle a chiedere le dimissioni del sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, non indagata in questa vicenda, eletta, come dice Renzi, dai cittadini? Qualcuno dice un eccesso di zelo del Movimento 5 Stelle per non perdere voti, si manda a casa un sindaco che tutto sommato per ora non ha dimostrato ancora di non essere un sindaco valido, perché non ha ancora cominciato a governare e soprattutto non è indagata lei personalmente. E soprattutto però sembra quasi vittima, nel senso, sì, che è vero la questione dell'abuso edilizio, però insomma è vittima per una mansarda far passare tutte le leggi che volevano far passare. Grillo, Movimento 5 Stelle, che dicono se c'è anche solo il sospetto, ma qua c'è di più del sospetto, che lei sia stata eletta comunque con i voti della Camorra e non abbia denunciato le pressioni che ha ricevuto, si deve dimettere. Senti Di Battista con le parole usa. Volete provare ad infiltrarvi? Noi rinunciamo pure a una poltrona al comune per darvi un segnale che allora, la mafia è una montagna di merda, adesso, e scusate l'espressione. Alla francese. Siamo i tipi che fanno dannare. Siamo noi, proprio noi, che non dormiamo mai. Forse siamo i tipi che vi danno da fare. Se resisti, resisto, insisto anche nei guai. Così io lo dico, rifarei tutto. E qua posso dirlo, ne farei. Diamo la buona domenica a Michele Emiliano, buongiorno. Buongiorno, buona domenica a tutti, buongiorno, quelli che ci ascoltano anche. Eccoci qua, allora con lei l'abbiamo convocata per commentare l'incontro, a dir la verità, che c'è stato ieri con Rossano Ercolini, che è un nostro grande amico a cui noi ci affidiamo a piene mani ogni volta che si parla di tematiche ambientali, per la questione dei rifiuti zero in Puglia. Ci ha fatto molto piacere che per la prima volta forse un presidente di una regione incontrasse Nicolini, premio Nobel per l'ambiente, noi diciamo così, ma insomma, Ercolini, che è, sì, è nostro. Ercolini. E quindi Emiliano, insomma, che dire, l'ha convinta Ercolini? Beh, è stata una bellissima serata. Io sono andato a trovarlo, in realtà ci inseguivamo da qualche mese, perché lui doveva venire a Massafra, poi in realtà ci siamo agganciati ieri a Lecce. e mi ha fatto una buonissima impressione. Soprattutto è arrivato il momento giusto, perché noi abbiamo come obiettivo programmatico rifiuti zero nel nostro programma. Il programma di governo della Puglia è stato scritto da circa 3.000 persone in forum programmatici che partivano dal basso, addirittura senza la presenza del candidato, una cosa sulla quale nessuno mai riflette, ma è stato davvero importantissimo. Cioè, lei è arrivato dopo, ha preso, Io sono arrivato dopo, le carte in mano. Esatto, ho preso il programma quando questo gigantesco forum me lo ha consegnato, e lì c'è questa strategia. Devo dire che mi hanno convinto anche i 3.000 cittadini pugliesi che volevano andare a questo obiettivo. Naturalmente arrivarci è mio compito ed è una questione molto complessa. Quindi ieri, in maniera molto chiara, ho detto che ho bisogno d'aiuto, perché partiamo, ecco, partiamo da zero, se mi permettete questo termine. Qual è, cioè, qual è oggi il livello? Siamo sull'orlo di una, come devo dire, molte altre regioni italiane, siamo sull'orlo di un'emergenza rifiuti. Le tecnologie presenti sono incredibili. Noi abbiamo dei termovalorizzatori che, se per ipotesi dovessimo essere così bravi tra qualche anno da avere una raccolta differenziata spinta, dobbiamo comunque pagargli la tariffa per mandarli a break even, perché una cosa che abbiamo chiarito ieri è che i termovalorizzatori nella sostanza ingessano la flessibilità che normalmente è richiesta in tutti i settori industriali, anche la pubblica amministrazione, sì, che ti costringono a rimanere agganciato. Andiamo per gradi, Emiliano, perché lei ha fatto una premessa: siamo in una situazione, siamo sull'orlo di una emergenza. Poi vi dice i termovalorizzatori saranno inutili, ma c'è sicuramente una fase di passaggio da gestire. No, noi siamo in emergenza nonostante i termovalorizzatori e nonostante noi siamo vincolati da contratti, diciamo, molto duri con questi gestori dei termovalorizzatori. Questo è bello, perché il punto fondamentale è che, per quanto tu possa avere termovalorizzatori o discariche, arriva sempre un punto oltre il quale non si può andare, ed è evidente che se la tua strategia è quella di mandare in equilibrio economico discariche e termovalorizzatori, non riesci a realizzare la strategia rifiuti zero, che va esattamente nell'altra direzione, cioè tende a ridurre il quantitativo dei rifiuti, e quindi devi fare i leggi per la prevenzione dei rifiuti, devi chiedere alle industrie di immaginare un packaging diverso, di vendere con tecniche e tecnologie diverse, avere marketing diversi e soprattutto avere in casa la filiera industriale del riciclo, perché se tu fai la differenziata e poi dopo non sai a chi vendere i materiali che hai selezionato dopo la differenziata, la differenziata diventa un costo che si scarica in tariffa adesso direttamente ai cittadini e poi ottieni solo rivolte e non invece il sostegno alla raccolta differenziata. Per esempio, noi l'abbiamo raccontato più volte, ci sono tante cooperative che si stanno ingegnando, a volte quasi in maniera volontaristica. Noi abbiamo raccontato il caso della Rimaflova alle porte di Milano, un'azienda che era fallita, chiusa, i cui dipendenti hanno ottenuto la possibilità di utilizzare i capannoni e adesso stanno recuperando una serie di materiali, rifiuti, roba elettrica, computer, eccetera. Li recuperano, magari donano i computer recuperati alle scuole. Questa è una cosa che invece dovrebbe essere fatta su scala strutturale, sostenuta dai comuni, dalle regioni, perché, come diceva lei, ci vuole la filiera, quindi bisogna anche investire. Avete fatto qualche calcolo su quanto investire e come per arrivare a questo? Io sono presidente da 6 mesi e stiamo rincorrendo le situazioni di emergenza. Immagini che ho dovuto commissariare l'intera provincia di Brindisi praticamente, perché non sanno più dove portare i rifiuti, oltre a infinite irregolarità. Il vantaggio della Puglia in cosa consiste? Che qui il sistema industriale fondato su discariche e termovalorizzatori è stato così forte e i soggetti imprenditoriali sono così potenti che non hanno consentito neanche infiltrazioni mafiose. Però adesso io devo convincere questi giganti, dai quali ho rifiutato ogni finanziamento in campagna elettorale, non per disprezzo nei loro confronti, ma perché volevo essere libero poi di muovermi come ritenevo, devo convincere queste persone che c'è la possibilità che i loro business si modifichino e cambino compatibilmente con gli obiettivi della strategia rifiuti zero, e che non è detto che si debba guadagnare per forza in questo settore solo da termovalorizzazione e discariche. E mi auguro che con l'aiuto del dottor Ercolini si possa costruire una legge sul rifiuti zero, che però costruisca un'economia, non la distrugga. Questo è il punto chiave che ieri, devo dire, ci ha fatto incontrare e credo reciprocamente convincere della utilità di una collaborazione. Cioè, noi vogliamo dar vita ad un sistema economico complessivo che crei economia dal riciclo dei rifiuti e che peraltro si sposa benissimo con la visione strategica della Puglia. La Puglia è stata individuata, ovviamente io me lo dico da solo e mi scuso, dal National Geographic come la più bella regione del mondo. Noi siamo una regione che si sta battendo contro la trivellazione del mare, ci stiamo battendo contro il carbone, ospitiamo le due fabbriche più grandi d'Europa a carbone, l'Ilva di Taranto e la centrale Enel di Cerano. Se noi riusciamo anche nei rifiuti ad avere una strategia diversa, siamo credibili, perché altrimenti però sa cosa tu vuoi togliere il carbone, poi non sei capace. Esatto, sa cosa pensano molti ascoltatori, proprio questo, discorsi che abbiamo già sentito fare tante volte, che possiamo fare a meno dei termovalorizzatori, per esempio, perché adesso voi siete messi un po' meglio della Campania e della Sicilia, che ne hanno uno, ne avete credo un paio in Puglia o sbaglio? Un paio. Però ci sono regioni che pure puntano alla strategia rifiuti zero, come l'Emilia Romagna, che ne hanno 9. Quindi forse un termovalorizzatore in più potrebbe starci. Il governo ne vuole costruire una decina, credo, tutto il paese. Voi vi siete, diciamo, allineati tra i contrari, però tra il momento in cui partite con la strategia rifiuti zero e quando arrivate, forse un termovalorizzatore nel frattempo ci vuole, o per evitare la crisi che lei stessa... termovalorizzatore? Io credo di no, anche perché nel momento in cui costruiamo il termovalorizzatore la strategia rifiuti zero diventa molto complicata. Noi dobbiamo farci bastare quelli due che abbiamo e costruire anche con le imprese che gestiscono questi due termovalorizzatori la nuova era. E devo dire che la stessa cosa dovremmo fare per la depurazione delle acque, perché anche lì giustamente il governo ha ragione. Emiliano non vuole le trivelle nel mare e poi non è capace di gestire la depurazione delle acque. E naturalmente abbiamo di fronte problemi giganteschi che però bisogna affrontare dritto per dritto, anche chiedendo aiuto alla filiera industriale che con Ercolini già lavora, perché ieri Ercolini ha parlato di imprese, capitalisti come li chiamavamo una volta, che sono però assolutamente convinti che il business del futuro non sia bruciare, ma sia fare altro e costruirlo insieme. Ma infatti avete scelto il miglior consulente possibile, anche nel momento in cui lei diceva noi vogliamo avvicinarsi verso i rifiuti zero, ma comunque vogliamo che questo diventi anche un indotto, e ci mancherebbe altro, perché non è che uno dice grazie mille, noi vogliamo perdere tutti i soldi possibili, quindi direi che avete scelto il giusto consulente. Io la il storia migliore di Ercolini la ricordo sempre perché è incredibile, questo uomo, un maestro di Capanno, che 30 anni fa forse ha iniziato, sembravano dei pazzi anarchici, rivoluzionari, chissà che idee ci avevano, e poi dopo 30 anni la sua strategia è stata talmente riconosciuta che ha ricevuto dalle mani di Barack Obama il riconoscimento più importante a livello ambientale nel mondo del 2013. Il cosiddetto Nobel per l'ambiente. E quindi, senta, a proposito delle trivelle però, Emiliano, io ho letto da qualche parte, è vero che l'azienda concessionaria pagherebbe 2.000 euro all'anno allo Stato per fare queste ispezioni, o ho letto male io? Tutti questi permessi di ricerca, chiariamo, cioè sono praticamente non sono autorizzazioni uniche, almeno mi auguro, anche se qualcuno ha dei dubbi, quindi autorizzano solo la ricerca. Per ricercare, la logica degli anni 50 era che ovviamente erano i ricercatori che facevano un piacere allo Stato nell'investire al fine di trovare il petrolio, e quindi, la tassa è ridicola. Certo. In realtà, quindi è vero, sono 2.000 euro l'anno che paga. Esatto, sono 5 euro credo a chilometro quadro, un buono pasto a chilometro quadro di mare. Ma allora me li compro io, qualche chilometro. La società che deve, utilizzando l'airgun, cercare, che è un'arma bella pesante per il fondo marino, che deve cercare il petrolio nelle Tremiti, è una società che ha dichiarato sul suo sito di non avere i soldi per arrivare alla fine di gennaio. Quindi sono società, non sono le grandi major, ma sono piccole società cui ragioni non sono ben chiare. Ma lei pensa che non faranno le trivellazioni se non hanno i soldi? Infatti. Non lo so, perché poi rischiano con l'autorizzazione in mano di andare in banca e di alimentare il circuito senza né capo né coda che porta da nessuna parte. Cioè, non vorrei che rivendessero l'autorizzazione, perché a quel punto è proprio il business. E io non vorrei che averla rilasciata servisse solo a farli sopravvivere, perché è il meccanismo burocratico che non funziona, perché io accetto la difesa del governo che dice le leggi sono scritte così, quindi noi eravamo tra virgolette obbligati a rilasciarlo questo permesso. Quindi lei sospetta che il Ministero dello Sviluppo abbia dato questa autorizzazione così, quasi come un favore? No, è stata data così. No, come un favore. Adesso entriamo in un ambito completamente diverso. No, è con un meccanismo burocratico, come se io vado a chiedere il passaporto. Ma non può funzionare così. Certo, non può neanche essere una totale discrezione politica, questo nel mondo non è gradito. No, anche perché il diritto di ricercare c'è. In realtà forse quello che lei sta dicendo è che siccome si tratta pur sempre dello stesso diritto di fare ricerca e sotto il cappello della ricerca c'è ricerca e ricerca, lei sta dicendo. E soprattutto non c'è la possibilità di affrontare il problema Tremiti in sé per sé. Cioè le Tremiti non sono un posto qualunque, come se uno volesse trivellare il Monte Bianco. Io penso che voi siate più vicini forse al Monte Bianco in questo momento. Io penso che sarebbe un gesto irresponsabile dal punto di vista anche simbolico. Dice: ma c'è un grandissimo giacimento sotto il Monte Bianco. Ma piano, piano. Non può essere un meccanismo burocratico che consenta di trivellare a 13,5 miglia, perché l'altra risposta. Quant'è la distanza dalle Tremiti di queste trivellazioni? Diciamo il margine arriva a 13-14 miglia, mi dicono sono oltre le 12 miglia, ma non si ragiona. Beh, non è molto. Io non sono mai stato alle Tremiti, però moltissime persone invece andare, sì. Dovete venire in Puglia perché è una regione strepitosa. Basta vedere le foto, sono posti straordinari naturalmente, e l'idea che si possa trivellare a pochi chilometri da lì per una ipotetica ricerca del petrolio, mettendo in discussione un'industria turistica, tra l'altro la Puglia a tutti gli indicatori in crescita, fa un po' rizzare i capelli in testa. Senta... Sì, diventa anche molto difficile, però dov'è il discrimine, nel senso di scegliere perché le Tremiti sì piuttosto che le Tremiti no, e altri luoghi, perché ognuno dirà il mio luogo è molto bello. Poi è ovvio, le Tremiti sono un posto straordinario, ci mancherebbe altro, io la Puglia la conosco, però diventa difficile capire qual è il discrimine. Per me nessuno, nel senso che un paese come l'Italia che già questa può essere una posizione. Beh, non ce l'ha, però forse vorrebbe averlo. Sì, Emiliano che dice? Dovrebbe averlo l'Italia. Io dico che in questo momento noi abbiamo in Basilicata il più grande giacimento, credo, della storia dell'umanità. Immagini che le voci dicono che non si è arrivati ancora al fondo e sono arrivati a 2000 metri di profondità. Sì. Cominciamo a tirar fuori quello che abbiamo. Però così è facile, perché dalla Puglia dice fatelo in Basilicata, quelli della Basilicata. No, anzi, in tutta sincerità, visto che comunque siamo attaccati, mi piacerebbe averlo il pozzo, perché così almeno avremmo le royalty che ha la Basilicata. Invece, pur essendo vicinissimo e patendo tutte le conseguenze, lei immagina che adesso bisognerà costruire un oleodotto che passa dalla Puglia e arriva al Golfo di Taranto per portare via il petrolio, con impatti notevoli, perché per ora il progetto di imbarcarlo sulle petroliere nel Golfo di Taranto, come se non bastasse tutto quello che è successo e succede a Taranto, e noi non becchiamo un soldo dalle royalty, perché anche questa è la follia delle leggi. Sono tutte leggi degli anni 50, 60, che forse vanno cambiate. Esattamente, forse vanno cambiate. È quello che avremmo voluto fare col governo discutendo. Certo. E invece il governo ci ha sparato questa raffica di autorizzazioni legittime. Noi abbiamo fatto un referendum. Il governo ha capito che rischiava questo referendum di andare in contemporanea con quello sulle riforme costituzionali, e chissà che cosa rischiava di succedere, e quindi si è sfilato un po' indietro, però sono rimaste ancora appese un po' di autorizzazione alla ricerca, che ripeto non sono trivellazioni diciamo come quelle per l'estrazione, però utilizzano per la ricerca, l'airgun, che è un meccanismo ad aria compressa nel sottosuolo, che addirittura era stato ipotizzato di inserire nel codice dell'ambiente come reato, poi è stato escluso, ma evidentemente non deve essere una cosa leggera. Senta, prima di salutarci Emiliano, le voglio chiedere anche una cosa sul sindaco di Quarto del Movimento 5 Stelle, che le ha chiesto di dimettersi. Lei non si dimette, Renzi ha detto, il segretario del suo partito, che fa bene lei a non dimettersi. Ci sono però le intercettazioni che dimostrano il tentativo di infiltrazione della camorra, che ne pensa? Innanzitutto che la camorra, la mafia, 'Ndrangheta va a votare, e quindi può succedere che qualche sindaco sia votato suo malgrado, e addirittura se adottassimo il criterio che uno si deve dimettere in automatico, basterebbe questo per far fuori anche un sindaco per bene. Quindi è chiaro che però lei non ha denunciato quello che sta venendo fuori, è che lei non ha denunciato le pressioni che ha ricevuto, questo sembrerebbe. devo dire un'altra cosa, se mi permettete. Ho fatto la testata antimafia per 20 anni. Non è proprio semplicissimo a quarto alzarsi la mattina e andare in una procura della Repubblica. Però un sindaco appena eletto? Sì, un sindaco, anche per un sindaco è abbastanza complicato. I sindaci che ricevono minacce in Italia sono centinaia, è durissimo come mestiere, soprattutto in quei luoghi. E il fatto che abbia perso qualche, diciamo, qualche il tempo comico, diciamo così, di andare a fare la denuncia, non è che automaticamente la rende un delinquente. Io penso invece, o un delinquente politico, diciamo così, un soggetto da far dimettere, io penso che il Movimento 5 Stelle debba accettare di vivere su questa terra e debba accettare, io ho stima nei confronti dell'elettorato del Movimento 5 Stelle, che considero una bella parte d'Italia. Cerco in tutti i modi di trovare un dialogo con loro. Voi immaginate che io gli avevo offerto l'assessorato all'ambiente, l'assessorato all'agricoltura e l'assessorato al personale, tre assessorati qui in Puglia, proprio per cominciare un dialogo e verificare la loro capacità di governare. E come hanno reagito? E niente, mi hanno sbattuto la porta in faccia, addirittura mi hanno fatto un comunicato che era una inaudita violenza, che io gliele ho firmati, ma come si dice, gli incarichi, gli ho mandato i vigili a notificarli, proprio per dire, certo, che facevo sul serio. Hanno detto che era una inaudita violenza, perché loro con noi del PD non si vogliono mischiare. Ho sentito il sindaco di Livorno che dice: quelli del PD devono solo morire. Beh, adesso, ma loro puntano al governo, Emiliano, loro non vogliono Ma per arrivare al governo devono dimostrare agli italiani di essere capaci di farlo, perché sennò altrimenti saremo sempre punto da capo. E non desiderare la morte degli avversari, onestamente. Vabbè, è chiaro che si parlava della morte politica, era forse una frase detta così in un momento di nervosismo, però questo atteggiamento così violento, le immagini che una ex consigliera del Movimento 5 Stelle qui in Puglia, che però poi a causa di alcuni, diciamo, ricorsi elettorali era stata costretta a uscire dal Consiglio regionale, siccome aveva indossato un braccialetto della campagna del Comune di Bari, governato dal PD, Bari per bene, e l'hanno fotografata, insomma questa qui si è dovuta dimettere dal Movimento. Cioè è un parossismo giacobino che io, che ho una certa età, ho già visto nella sinistra. Però adesso parossismo giacobino può darsi, però lei è stato eletto una calmata. No, però lei è stato eletto nel centro-sinistra, va a offrire gli assessorati al Movimento 5 Stelle avendo due programmi diversi, e chiaramente non è una cosa semplice. Rifiuti zero, avevamo lo stesso programma. Noi abbiamo fatto il reddito di dignità esattamente identico a quello del Movimento 5 Stelle. Allora sbagliato, Emiliano, doveva candidarsi con i 5 Stelle forse. No, ma no, però invece è giusto, è una collaborazione. Non è una roba che si fa con i guanti di lattice, come se facesse schifo. Bisogna rendersi conto che la vita negli enti locali, in particolare nel governo del paese, è durissima, complicata, piena di sofferenze e qualche volta anche di contraddizioni difficili da sanare. Va bene, grazie Emiliano, ci fermiamo qua. Buona domenica. Allora, ci abbiamo la pausa, siamo andati lunghissimi, poi abbiamo gli ascoltatori che sono già in linea. Abbiate pazienza e fiducia, perché tra pochissimo arriviamo, vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. E c'è ancora chi ha paura a parlare di terrorismo islamico. Cioè, quello che è successo a Colonia io lo chiamerei terrorismo sessuale. E tra l'altro questa settimana in un altro paese, in Germania, il comune ha vietato la piscina ai profughi dopo le denunce di molestie da parte di alcune ragazze. Quindi la paura va diffondendosi, ma anche questa questione delle molestie cresce. Allora, sentiamo anche... No, andiamo subito con gli ascoltatori, che li abbiamo un po' trascurati. Stefano da Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, complimenti a tutte e due. Grazie. Alessio e Carlo, siete due grandi, mi fate anche tanta compagnia, perché anch'io la domenica mattina lavoro. Che lavoro fai? Io sono, diciamo, allora io faccio riproduzione per innesto delle piante. Ah, quindi sei in campagna? Sto in campagna, ora sono in una serra, stamani sono entrato a 3 gradi sotto zero. Però, noi pensavamo che nella serra facesse caldo, invece ho sbagliato. Allora, non ne so neanche una. Allora, diciamo questa, la serra ci sono serre riscaldate dove viene fatto tantissimi lavori. Sì. Il lavoro di innestatura delle piante non lo si può fare perché viene tagliata una marza chiamata da una pianta innestata su un portinnesto che però non deve assolutamente avere niente a che fare con il calore. Quindi più umidità c'è e più il risultato d'attecchimento è ottimale. Quindi si mettono su due giacconi e si entra dentro. Innesti quindi che uno innesta un mandarino con un ciliegio? Quelle cose no, lì? No, vabbè, io ovviamente ho fatto un esempio stupido, però volevo capire se era quel tipo il mapo, che è mandarino più pompelmo? Allora, io mi occupo di vivaismo, quindi nel Pistoiese siamo specializzati nel vivaismo. Per quanto riguarda ora il discorso, io ho innestato anche tanti frutti, insomma, per quanto riguarda gli incroci, questi sono fatti con gli ortaggi, la melanzana sul pomodoro e quant'altro, insomma. La melanzana sul pomodoro è interessantissima. Il melandoro viene già condita, la melanzana è già fatta. Sì, ecco, lo fanno per dare, come posso dire, più protezione alla pianta. La pianta viene più forte, meno aggredita da patogeni, diciamo. Quindi è la melanzana alla norma. Bello. Comunque noi abbiamo un pubblico la domenica e il sabato di gente che sta in campagna. Sì, perché e fa delle cose bellissime. Sono proprio i giorni che si dedicano a questo. Però Stefano, tu lo fai di lavoro 7 giorni su 7? Lo faccio 7 giorni su 7 perché in questo periodo bisogna tirare forte perché l'innestatura non dà periodi molto lunghi. Poi per 10 mesi vai in vacanza? No. Abbiamo pochi secondi prima del traffico, Stefano. Qual era il vero motivo della telefonata? Allora, il vero motivo della telefonata è che proprio dopo nell'indizio mi sono un po' perso nel secondo indizio. Io avevo pensato, mi sembra si chiami Giachetti, sì, che è il un esponente del PD, credo sindaco, che vorrebbe candidarsi a sindaco di Roma. Roberto Giachetti, che ha annunciato la candidatura alle primarie del centro-sinistra per Roma e quindi sta affrontando sicuramente una sfida, però non era lui, non avevamo pensato a lui, Stefano. Grazie mille per averci chiamato. La sfida del nostro personaggio misterioso è una sfida contro il tempo, però ci fermiamo qua. Tra poco vi diamo anche un altro indizio. Va a traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are happy. Mi sarebbe piaciuto proprio fare il sacerdote. Addirittura quando ero piccolo facevano quella domanda che fanno a tutti i bambini: cosa vuoi fare da grande? Io rispondevo sempre: il Papa. Proprio. E siccome a questa risposta si mettevano tutti a ridere, capii che dovevo fare il comico, insomma, ecco. È stato lì che ho deciso, se si fossero inginocchiati avrei fatto il Papa, ecco. Non potevamo non sentirlo Benigni, che poi ha detto: pensate, un Papa che invita un comico alla presentazione del suo libro. E in effetti, vabbè, che Benigni poi si è speso in tante parole, ormai è diventato quasi più un santone comico. È quasi più un comico papalino, diciamo. Ah, pensavo è quasi più comico Papa Francesco di Benigni. No. Vabbè, mi fai sentire anche Garco velocemente, perché Gabriel Garco è ingaggiato per il Festival di Sanremo. C'è questa cosa, mi spoglio, non mi spoglio. Vediamo, non lo so, magari mi spoglio in momenti di imbarazzo che non so cosa farmi, te levo tutto così. Ma quanti anni c'ha Garco? Si spoglia ancora? A certa età, se lo può permettere, sicuramente sì. Più di noi. Allora, abbiamo qualche ascoltatore o no? Sentiamo qualcuno? Sì, Franco da Monza, perché dobbiamo indovinare. Velocemente, Franco? Sì, buongiorno. Buongiorno. Il personaggio, chi è? Il personaggio, secondo me, fin dall'inizio, è l'alpinista Simone Moro sul Nanga Panga, che deve combattere con i tempi stretti, con il poco tempo che ha disponibile per conquistare la vetta al terzo attacco, e che con i venti, non venti, ha un appuntamento molto preciso, molto stretto, e deve combattere col tempo. Assolutamente sì, ma assolutamente no, ne era lui. E quindi... Grazie Franco. Vabbè, siamo in chiusura. Può darsi che sia una delle prime volte in cui non vinciamo, però adesso vi diamo un indizio abbastanza tosto perché recuperiamo. Siamo andati lunghi con Emiliano. L'indizio è un sudamericano da Guinness. Basta, c'è già molto. C'è qua, tutto, c'è tutto. Vai, sentiamo anche l'incidente che è capitato in settimana a Chicco Mentana, strepitoso però, sentitelo durante i titoli. Le cellule di Al-Qaeda nel Maghreb hanno minacciato l'Italia proprio sulla Libia. Il governo dell'unità nazionale è un complotto italiano che vuole occupare il paese, se ne pentirà. Dopo Volkswagen anche la Renault finisce nella bufera per le frodi. Niente titoli, andiamo direttamente al giornale. Take me to Texas by your side. Don't leave me hanging out to dry. I said, take me to Texas on your iron horse ride. I'm leaving this old house behind. Don't need nothing but an old brown sack. Only the Lord knows I ain't coming back. E allora siamo quasi in chiusura, però c'è tempo per una bella storia che ci porta in Texas. Il titolo è: studenti universitari pisani nel team di Hyperloop, la navicella che viaggia alla velocità del suono. I ragazzi presenteranno in Texas un progetto all'avanguardia per il mezzo di trasporto del futuro. Uno di loro è qua con noi, Emanuele Raffaele, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Il nome è Emanuele, immagino? Esatto. Sì. Ecco, sì, benissimo, ci ho indovinato. Ingegnere aerospaziale, dottorando all'Università di Pisa, che stai nel team che ha ottenuto quale riconoscimento? Spiegacelo tu. Sostanzialmente siamo ufficialmente invitati al Design Weekend nella Hyperloop Six Pod Competition. Questa è una competizione. Adesso ce lo devi spiegare in italiano, sì, perché ci siamo persi. Noi adesso montiamo tutte queste parole in inglese e cerchiamo di comprendere. Esatto. Ok. Sostanzialmente Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX. Sì. Tesla, grandissima azienda che si occupa di. Tesla di macchine elettriche e sì. SpaceX è stata la prima azienda privata ad effettuare lanci spaziali. Ok. Benissimo. È la prima a rifornire la stazione spaziale internazionale. Quindi vi lanciate nello spazio con una macchina elettrica, ho capito bene? No, più o meno. Però... Allora spiegacelo. Sì, ha lanciato questa competizione internazionale, sì. Aperta ad enti accademici, ma a qualsiasi tipo di ente, sì. Per progettare le navicelle che andranno nel tubo di questo nuovo mezzo di trasporto, Hyperloop. Hyperloop appunto è questo nuovo mezzo di trasporto costituito da un tubo entro cui c'è bassissima pressione. E dentro ci viaggia un treno che va sparato. A che velocità? Oltre 1000 km orari. Si possono fare Milano-Roma in 35 minuti, è vero? Esatto, questa distanza è la stessa che c'è tra Los Angeles e San Francisco, che è la tratta che loro hanno previsto di coprire sulla, come prima linea. Sì. Ma funzionerebbe anche in Italia oppure dopo si dice però in Italia no perché ci sono le montagne, perché è lunga e stretta, perché non si può scavare, perché ci sono gli antichi romani o perché fa concorrenza a Trenitalia? Tutto, no, in realtà effettivamente le montagne creano qualche difficoltà perché uno dei grandi vantaggi è la resilienza del percorso di questo mezzo di trasporto, però mai dire mai. No, certo, ero curioso perché oggi vado a Roma, era per questo, ero molto curioso perché 35 minuti sarebbe bellissimo, però poi di solito si dice, sì funziona anche in Italia, però poi sugli Appennini c'è una sosta di 4 ore e mezza e quindi è finita. Senti Emanuele, ma questo Hyperloop, diciamo, quando potrebbe entrare in funzione nella migliore delle ipotesi e dove? In che luogo della Terra? Allora, la prima linea è appunto in California, sulla tratta Los Angeles-San Francisco. Loro sperano di, insomma, in qualche anno di averla, un paio d'anni. Pensa che in quella zona del mondo, a San Francisco, mentre noi stiamo ancora bruciando i rifiuti, trivellando le tremiti per cercare il petrolio, stanno facendo un treno che va a mille quanti chilometri orari? Oltre mille chilometri orari. Ma la notizia che ci è piaciuta è che c'è questo team di ingegneri italiani che, insomma, vi siete distinti, perché quanti altri team ci sono in questa finale? 120 team, a settembre eravamo iscritti in oltre 1200. Quindi è dura ancora, però è ancora un centinaio di concorrenti. Ci sono le migliori università da tutto il mondo, però non ce la stiamo mettendo tutta. Mi raccomando, noi tifiamo per voi. Portate alto il gonfalone italiano. Un po' di campanilismo. complimenti, un bel risultato comunque per la nostra ricerca, per le nostre università, l'Università di Pisa. Io vengo da Pisa, quindi sono particolarmente contento. Ma speriamo anche per i nostri trasporti in futuro, perché sì, ripeto, Milano-Roma 35 minuti, pazzesco, è interessante, cioè si possono avere delle relazioni a distanza. Allora, oggi nessuno ha indovinato il personaggio della settimana. Lo teniamo anche per settimana prossima? Sì. Sarebbe bello, visto anche chi è il personaggio, sarebbe bello portarselo avanti per anni e anni e anni. Anni e anni, invece fammi dire che ieri ha vinto l'ascoltatore da Catania, la cui figlia lui spera che rientri in Sicilia per portare la tecnologia dei tetti verdi. Lo diciamo a lui, che sa così a questo punto di avere vinto i biglietti della mostra di Barbie a Milano. Ok? Perfetto. Ci sentiamo sabato prossimo. A sabato prossimo. Ciao da Carlo Gabardini. E adesso Maurizi. E grazie ad Andrea Piana, Lorenzo Nespoli e Peter Bescapa in regia oggi. Ciao a tutti. Buona domenica. E a chi ci ascolta in podcast.